strade e motori di Massimo De Donato. Salve a tutti da Massimo De Donato, nuovo appuntamento con l'informazione dedicata al mondo dell'auto e della mobilità. Mercato dell'auto. Acea ha radicalmente rivisto le sue previsioni per il 2020. Utilizzando la lente dell'emergenza da coronavirus, il mercato europeo potrebbe perdere il 25% in termini di immatricolazioni. Ascoltiamo la scheda. Nel 2020 il mercato europeo dell'auto si chiuderà con una contrazione del 25%. È quanto previsto da Acea, l'Associazione Europea dei Produttori, secondo cui si passerà dai 12,8 milioni del 2019 a circa 9,8 milioni di vetture immatricolate, con ben 3 milioni di esemplari in meno. Dopo il crollo di oltre il 41% registrato nei mesi del lockdown, marzo, aprile e maggio 2020, il mercato avrà dunque una risalita, ma le perdite saranno comunque ingenti. Quello stimato, infatti, è il calo più drastico dal 2013, avvenuto dopo 6 anni di sofferenza dovuta alla crisi finanziaria iniziata nel 2008. Auto elettriche silenziose e sicure. Per evitare che a causa della loro silenziosità le vetture elettriche possano sorprendere i pedoni, è stato sviluppato un sistema audio in grado di riprodurre il suono di un motore a combustione. È il caso di Skoda con il suo e-noise, quasi una firma audio della casa automobilistica, fatto di frequenze basse che salgono quando la vettura accelera e sono diffuse da un altoparlante posizionato su una delle ruote anteriori. Parliamo ancora di sicurezza, in questo caso dei più piccoli. Hertz ha scelto Bluon, startup milanese impegnata nei servizi di geolocalizzazione, per rifornire tutta la sua flotta del dispositivo MyMe, un nuovo dispositivo antiabbandono pensato per offrire la massima sicurezza ai passeggeri più giovani. Compatibile con tutti i seggiolini, il sistema si può utilizzare anche con uno smartphone, ovviamente dotato dell'apposita applicazione. E cambiamo decisamente argomento, perché parliamo di noleggio auto, un settore che ovviamente ha risentito in maniera pesante della situazione creata con il Covid-19, del lockdown, un settore del quale parliamo oggi in compagnia di Giuseppe Benincasa, che è il direttore generale di Aniasa. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Buonasera a voi. Allora, Aniasa ha presentato proprio qualche giorno fa uno studio per fare un po' il punto su questo settore, sia nel lungo e nel breve termine, ma anche nel car sharing, di come è andato durante il lockdown, ma soprattutto di questi primi mesi di ripartenza, il tutto per capire un po' quali sono gli scenari di mobilità prodotti dall'emergenza Covid-19. Allora, innanzitutto, in generale il settore del noleggio auto, e poi entriamo nello specifico dei vari segmenti che ho enunciato prima. Come è andato il noleggio auto? Ovviamente è andato male, ma quanto è andato male questo noleggio in questi mesi? Diciamo che è andato veramente male, nel senso che ha perso circa l'80%, quindi un dato molto preoccupante in un momento in cui invece il settore stava andando a livelli con cifre abbastanza significative nel 2019, quindi la frenata dei 3 mesi di lockdown è veramente una frenata veramente brusca. L'unico settore che ha tenuto, ma per ovvi motivi, è quello del lungo termine, ma il dato più preoccupante è l'impatto sulle immatricolazioni, nel senso che questo settore rappresenta un quarto dell'immatricolato annuo nazionale e noi purtroppo quest'anno stiamo registrando una perdita di immatricolazioni che supera i 155.000 veicoli. Certo, entriamo un po' nel dettaglio dei vari segmenti. Lei ha già detto che il lungo termine sostanzialmente ha tenuto e non abbiamo difficoltà a crederlo, invece come è andata sul breve termine e poi anche sul car sharing? In breve termine ha avuto una flessione dell'80% di noleggi, con una perdita di fatturato del 70%. Il car sharing ha avuto un crollo del 80% anche lui, ma addirittura proprio con veicoli sostanzialmente fermi, dovuti inevitabilmente sia al blocco sia al discorso della igienizzazione / sanificazione dei veicoli. Il breve termine ha retto leggermente meglio, perché la componente veicoli commerciali è quella che invece anche in pieno lockdown, certo, è andata forte, perché i nostri veicoli, soprattutto il freddo, sono stati utilizzati tantissimo per l'ultimo miglio, sia per la filiera agroalimentare sia per quella dei farmaci. Farmaceutica. Ecco, tutto questo durante il lockdown, però adesso siamo ripartiti, quindi ad esempio il car sharing come sta andando in queste settimane? C'era il timore che ci fosse un calo di interesse proprio per le vicende legate alle sanificazioni piuttosto che i rischi di inquinamento di qualche tipo, però mi sembra di aver capito che tutte le compagnie assicurino dei processi di sanificazione costante di questi veicoli. Assolutamente sì, i protocolli sono cambiati sia per il breve termine che per il car sharing. Il breve termine chiaramente lo fa con maggiore agilità e quindi i noleggi sono tutti, all'inizio noleggio le vetture sono tutte perfette. Il car sharing ha dovuto implementare all'interno della propria app di prenotazione quantomeno il discorso che il soggetto che noleggia deve avere a bordo, deve salire a bordo con guanti e con mascherina, perché la vettura viene chiaramente poi igienizzata alla fine della giornata. L'aspetto, diciamo, più eclatante è quello che emerge per tutti e due i comparti, ma in generale per la predisposizione degli italiani alla mobilità, dallo studio che è stato fatto da Bene, che abbiamo presentato in settimana a tutta la stampa. Ecco, che cosa emerge da questo studio? Da questo studio emerge un dato decisamente preoccupante per la nostra economia, ma anche, come dire, foriero di spunti positivi per chi ci governa e per le leve che dovrebbero essere attivate. Sostanzialmente gli italiani ormai considerano il trasporto pubblico in pratica obsoleto, prevedono di muoversi nella stragrande maggioranza dei casi con la propria auto e in qualsiasi modo, quindi sia auto di proprietà oppure auto a noleggio e via discorrendo, maggior propensione all'uso condiviso, ma chiaramente in sicurezza dell'auto, scarsissima propensione all'acquisto dell'auto. Sostanzialmente l'84% del campione degli intervistati, un campione di ampia gamma, ha di fatto dichiarato che l'acquisto dell'auto a breve e medio termine non è proprio nei suoi pensieri. E questa è una buona notizia per voi, un po' meno per tutte le case costruttrici, ovviamente, che nell'acquisto dell'auto vedono la propria fonte di guadagno, a meno che le auto non vengono acquistate da chi si occupa di noleggio, come in questo caso. Esattamente, nel senso che chiaramente il problema di fondo è che noi abbiamo un parco veicolare che per il 76% è da Euro 5 in giù, quindi solo il 24% del nostro parco veicolare è da Euro 6 in su. In realtà quello che noi dovremmo aiutare a smaltire è esattamente quel parco lì, ma andando incontro a chi ha una capacità di spesa e una disponibilità di spesa in questo momento sufficientemente contenuta. Continuare a insistere sul meccanismo degli incentivi, ma destinati soltanto a vetture che hanno costi di acquisto e di gestione particolarmente alti, questo mette fuori logica e fuori mercato tutta una dinamica di vendita. L'aspetto emblematico che uscì fuori dalla ricerca e che noi abbiamo sottolineato è che addirittura il cittadino italiano prevede di utilizzare di meno la propria auto e conseguentemente aumenta la propensione al non acquisto. Certo, tra l'altro leggevo anche un dato in vista dell'estate interessante, e cioè che il 20% degli italiani è pronto a noleggiare una vettura per le proprie vacanze. Anche questo è un dato sicuramente positivo. C'è un dibattito che è quello legato poi alla DL Rilancio e soprattutto alla riconversione in legge, che in queste ore è al centro del dibattito anche parlamentare. Incentivi per l'auto, qualcuno ritorna a parlare di incentivi per le auto aziendali, che è un segmento dove l'Italia è abbastanza indietro rispetto ai vantaggi fiscali di un altro paese europeo. Sicuramente, a parte il fatto che appunto qui stiamo parlando non di, cioè, diciamo, quando nel termine incentivo non stiamo richiedendo sostanzialmente finanza fresca. Qui stiamo semplicemente chiedendo un allineamento alla tassazione, né più né meno come quella degli altri paesi europei. Esatto. Noi siamo fermi da 14 anni con una sentenza di condanna dello Stato italiano da parte dell'Alta Corte di Giustizia e sono di 3 anni in 3 anni le proroghe che vengono concesse dalla UE per il riallineamento. Sostanzialmente la teoria che noi abbiamo, come dire, posizionato nei confronti del governo è una teoria non di soldi freschi ma semplicemente di credito d'imposta, perché tanto quelle vetture comunque resteranno sui piazzali invendute. A questo punto, perso per perso l'IVA e tutte le tasse che comunque il parco auto genera nel momento in cui viene acquistato, tanto vale che questo credito d'imposta lo utilizzi verso l'unico settore che in questo momento, per i numeri che ha, ti può assicurare un gettito fiscale poi in seguito rispetto, non indifferente. Certo, rispetto a quello che ci sarebbe senza appunto questo tipo di credito. Bene, e noi ovviamente seguiremo con grande attenzione anche l'evoluzione di questo dibattito, ormai si attende questa conversione in legge da tempo, così come si attendono altri provvedimenti, il DL semplificazione, un altro punto fermo per quanto riguarda alcuni aspetti di questo settore. Termina qui la prima parte di Strade Motori, salutiamo e ringraziamo il nostro primo ospite Giuseppe Benincasa, direttore generale di ANIASA. Ci risentiamo tra pochi minuti per parlare invece di auto a guida autonoma. A tra poco. Il nuovo ciclo di Un luogo, una storia, ambientato durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale, gli sbarchi degli anglo-americani nelle spiagge della Sicilia e Anzio, Cassibile e l'armistizio dell'8 settembre 1943, Milano, Firenze, Napoli, Genova e Torino, il viaggio lungo la linea gotica da Massa alle Marche. Sono Daniele Biacchese, vi narrerò le piccole storie che attraversano i posti e la grande storia, ogni venerdì in podcast su radio24.it. Strade e motori. Seconda parte di Strade e Motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato. Come vi anticipavo nel corso del precedente appuntamento, ci occupiamo oggi di auto a guida autonoma, questo perché nelle scorse settimane c'è stata la firma di un protocollo d'intesa fra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell'Innovazione proprio per favorire la sperimentazione di queste auto del futuro. Ne parliamo con l'ingegner Mario Nobile, direttore dei sistemi informativi del MIT e presidente dell'Osservatorio Smart Road del Ministero. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Salve, salve a lei e a tutti. Allora, dicevamo di questo protocollo d'intesa che in realtà sancisce in qualche modo un'attività, quella del Ministero dei Trasporti, che si sviluppa ormai da anni per l'evoluzione delle smart road e della guida autonoma. Anzi, possiamo dire che forse una volta tanto l'Italia fa un po' da apripista in Europa su questo tema. A che punto siamo con la sperimentazione? Cosa succede oggi sulle strade italiane per quanto riguarda la sperimentazione della guida autonoma? Oltre al protocollo d'intesa col comune di Modena che lei ha citato, c'è anche il protocollo con l'area di Torino, quindi il comune di Torino e l'ecosistema che insiste sulla città di Torino. E noi stiamo seguendo con molta attenzione le sperimentazioni in corso, che hanno già portato a una serie di modifiche, perché come abbiamo già discusso in una precedente volta, abbiamo aggiornato il decreto Smart Road per consentire anche la sperimentazione di mezzi non omologati e non omologabili. Stiamo per chiudere, sicuramente prima dell'estate avremo il decreto pubblicato, e quindi anche grazie alle sperimentazioni che citavo prima ci siamo resi conto che non è sempre logico partire da un veicolo tradizionale per sperimentare, certo, la guida autonoma, ma è necessario anche aprirsi e superare le logiche delle direttive di omologazione che sono molto stringenti e che prevedono ad esempio volante e pedali che non sempre possono essere presenti sui mezzi. E tra l'altro questo apre un po' anche a tutte le tantissime start-up che stanno nascendo anche in Italia per promuovere questo tipo di mobilità. Assolutamente sì, e il protocollo d'intesa firmato anche con il MID, con il Ministero dell'Innovazione, è proprio nella direzione di incentivare questo tipo di ricerca e sviluppo, non soltanto da parte di start-up, ma anche di soggetti più strutturati o enti di ricerca pubblici e privati. Ovviamente la difficoltà è soprattutto nel non disperdere le esperienze acquisite. Perché sono importanti le sperimentazioni? Perché banalmente non si deve reinventare l'acqua calda, quindi già Torino e Modena, che hanno, ricordo, delle aree protette, quindi degli autodromi o dei luoghi dove è possibile provare non su strada pubblica una serie di tecnologie e degli elementi su strada pubblica, dei percorsi su strada pubblica, questo consente a chi approccia il problema di non effettuare degli errori sistematici che in fase iniziale ovviamente avvengono. Quindi praticamente in questo momento in Italia stanno avvenendo queste due sperimentazioni, ma in luoghi chiusi. Quando vedremo queste auto invece circolare in luoghi aperti? Sono già anche su strada pubblica, perché a Torino e a Parma si stanno svolgendo in questo momento in cui stiamo parlando delle sperimentazioni di veicoli omologati, quindi vetture, diciamo, classiche dal punto di vista anche automobilistico, sulle quali è stato posto lo strato di tecnologia che consente quindi la sperimentazione della guida autonoma. Quindi, per ricapitolare, sia nell'area di Torino che nell'area di Modena ci sono delle zone protette dove è possibile effettuare la sperimentazione non su strada pubblica. Le sperimentazioni sono anche su strada pubblica nelle città di Torino e di Parma in questo momento, e a breve ci aspettiamo, stiamo incentivando e supportando anche una richiesta di sperimentazione sul track platooning, che purtroppo l'emergenza Covid ha un po' ritardato per gli ovvi motivi, ma è un fronte che dobbiamo anche aggredire, che è quello del trasporto merci. Track platooning, lo spieghiamo molto velocemente ai nostri radioascoltatori, significa far viaggiare un convoglio di veicoli pesanti, di camion, con un solo veicolo in testa che quindi dà la guida all'intero convoglio e gli altri collegati telematicamente di loro. Tra l'altro mi sembrava un tipo di tecnologia un po' superato, almeno in Europa, invece se ne ritorna a parlare. Se ne ritorna a parlare non soltanto sulla lunga percorrenza, perché l'ambito autostradale è l'ambito con meno interferenze per una tecnologia di guida autonoma, ma anche la lunga percorrenza. Avrete anche letto che ci sono diversi operatori a livello mondiale che hanno sperimentato, no, trasporto di varie merci, tra cui la birra, insomma, è stata una notizia anche abbastanza rilanciata. Però oltre al punto di lunga percorrenza, ciò che in questo momento in cui il trasporto ha avuto degli incrementi incredibili, no? Anche nel periodo di emergenza, c'è il tema dell'ultimo miglio. Quindi noi stiamo verificando non soltanto dal punto A al punto B in autostrada, ma soprattutto l'accesso a un interporto, l'accesso a un polo logistico, cioè quegli spostamenti che debbono essere fatti con la gomma, perché l'ultimo miglio tipicamente appannaggio della gomma come trasporto merci, che in qualche maniera può consentire dei volumi importanti, come diceva lei, con pochi supervisori a bordo, perché poi questo convoglio in linea tendenziale dovrebbe avere solo un essere umano nel veicolo di testa, ma durante le sperimentazioni, certo, ovviamente c'è un autista su ogni veicolo, c'è un autista su ogni veicolo in grado di prendere il mezzo. Però oltre che il punto, che è una sperimentazione già avvenuta in altre parti del mondo, noi vogliamo un attimo valutare con le autorità portuali, gli interporti, i diversi poli logistici esistenti, quello che può succedere su un tratto di autostrada e sull'ultimo miglio in una zona già predisposta per accogliere le merci, come può essere un interporto, un porto, insomma, altre facility. Ingegner Nobile, siamo in chiusura, un'ultimissima battuta. Abbiamo parlato di questo accordo con il Ministero per l'Innovazione, tra il Ministero per l'Innovazione e quello dei trasporti e delle infrastrutture. Cosa porterà questo accordo in questo settore? Porterà sicuramente una sinergia tra pubbliche amministrazioni, ma questo, come dire, può essere un aspetto endogeno, no? Che non porta particolari utilità all'esterno. Invece è importante perché due ministeri, chi si occupa di innovazione e chi si occupa di infrastrutture e trasporti, scelgono di essere insieme, di essere un punto di contatto unico. Per tutti quei soggetti, quindi il protocollo sviluppa tutta una serie di attività e vedrà anche degli avvisi, delle attività di comunicazione nei confronti dei soggetti potenzialmente interessati. In due parole, questo protocollo porterà ad avvisi, ad attività di animazione, per fare in modo che chi vuole fare queste innovazioni non debba vedere i ministeri come l'ultimo elemento da considerare, ma possa già inizialmente discutere, interloquire con noi, con l'osservatorio, con il Ministero Innovazione, in modo da preparare il campo anche ad eventuali modifiche di regolamenti o normative, perché l'innovazione, come diciamo sempre, avviene in contrasto alle regole, altrimenti non sarebbe innovazione. Altrimenti non sarebbe innovazione, essere rivoluzione per forza, ovviamente. Esatto, e quindi l'idea è di animare tutti i soggetti che citavamo prima per fare in modo che si facciano vedere, si facciano riconoscere e quindi portino su un tavolo che è istituzionale dei due ministeri una serie di elementi, di volontà: voglio sperimentare questo tipo di veicolo, vorrei innovare la mobilità urbana o altro, in modo che noi possiamo accompagnarli. Sicuramente diamo anche una mano e un supporto, come dicevamo all'inizio della nostra chiacchierata, rispetto a errori tipici, sistematici, quindi evitare di riscoprire ogni volta l'acqua calda, e in più possiamo supportarli proprio per fare in modo che le sperimentazioni avvengano, siano realizzate. Certo. Questo è l'obiettivo. Bene, termina qui anche questa seconda parte di Strade Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro ultimo ospite, l'ingegner Mario Nobile, direttore dei sistemi informativi del MIT, ma soprattutto presidente dell'osservatorio Smart Road del Ministero dei Trasporti. L'appuntamento con Strade Motori torna come al solito sabato intorno alle 22. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.